Cosa c'è nella città? Se tu vedessi già che la vita viene e va e non vale niente. No, non vale niente. C'è chi macchina il terrore, c'è chi vuole un'altra guerra, c'è chi vive nel rancore, chi rivuole la sua terra e non c'è più pace. No, non hai più pace. La nuova Babilonia è tra la gente. La nuova Babilonia ora brucia. La nuova Babilonia è nella mente. La nuova Babilonia ora brucia. Oh Yahweh, sento un vuoto in me. Oh Yahweh, ora cerco te. Il perdono è nel tuo cuore. Il tuo fuoco è l'amore. Oh Yahweh, sento un vuoto in me. Oh Yahweh, ora cerco te. Il perdono è nel tuo cuore. Il tuo fuoco è l'amore. C'è chi uccide per l'aldilà, c'è chi impone la libertà. Quanto sangue innocente nel vento e nella sabbia e non vale niente. No, non vale niente. Ma quanti cuori armati, rivestiti dal silenzio, pietre in un deserto, di sogni soffocati e non c'è più pace. No, non hai più pace. La nuova Babilonia è tra la gente. La nuova Babilonia ora brucia. La nuova Babilonia è nella mente. La nuova Babilonia ora brucia. Oh Yahweh, sento un vuoto in me. Oh Yahweh, ora cerco te. Il perdono è nel tuo cuore. Il tuo fuoco è l'amore. Oh Yahweh, sento un vuoto in me. Oh Yahweh, ora cerco te. Il perdono è nel tuo cuore. Il tuo fuoco è l'amore. La nuova Babilonia è tra la gente. La nuova Babilonia ora brucia. La nuova Babilonia è nella mente. La nuova Babilonia ora brucia. We'll be right back.